questa traccia non è niente. Rescio 2006 e questo è niente, niente, niente, e questo è niente, niente, nient'altro che niente, niente, niente, e questo è niente, niente, niente, niente, niente, niente. Resti steso in questo niente, se ti lasci cadere in questo baratro di vite spente, consumato come un pezzo di carbone, ignoto fra gli ignoti, un altro uomo senza nome, senza nome, senza nome. Resti steso in questo niente, se ti lasci cadere in questo baratro di vite spente, consumato come un pezzo di carbone, ignoto fra gli ignoti, un altro uomo senza nome, senza nome, senza nome. Dai che in fondo lo sappiamo, tutto questo è niente, in questo niente noi viviamo. Viviamo sopra i sogni, sopravviviamo, ci sorprendiamo quando dopo aver criticato chi pugnala ci troviamo col pugnale nella mano. Medito sul fatto che chi critica poi compie pari, pari stesse cose. Medito sul sangue che qua cade come petali di rose. E soprattutto medito sul sangue che trasuda dai miei occhi. Vorrei saper saltare prima ancora di vederli questi intoppi, palparne la contingenza, accettare che essi siano aria diradata che sa densa. Eh sì, basta un soffio, ma io goffo, troppo goffo, non riesco a sorpassare questo niente in cui cammino. Mi ostino a ridere sul mondo, ad affrontare ogni momento col sorriso, perché per questa vita troppe volte ho speso la fotte e l'energia per lasciare che il mio corpo in questo niente resti steso. Resti steso, resti steso, resti steso in questo niente, se ti lasci cadere in questo baratro di vite spente, consumato come un pezzo di carbone, ignoto fra gli ignoti, un altro uomo senza nome, senza nome, senza nome. Resti steso in questo niente, se ti lasci cadere in questo baratro di vite spente, consumato come un pezzo di carbone, ignoto fra gli ignoti, un altro uomo senza nome, senza nome, senza nome. Guarda intorno il mondo, poi guardalo più a fondo, scrutalo dai minimi dettagli all'immagine di sfondo. Osservalo nei suoi particolari e nel suo susseguirsi degli eventi suoi più vari. Capirai quel che in fondo tutti un poco già sappiamo, la condizione stessa in cui viviamo, strana convinzione con cui ci affaccendiamo e ci riempiamo di retorica, ma senza cognizione mai di quello che diciamo. E poi per forza ci sentiamo incatenati, asfissiati dall'aria che sta densa, imprigionando i nostri sguardi schiavizzati. Lentamente adattiamo il nostro corpo alle catene, ragioniamo giungendo alla conclusione che in fondo va tutto bene, ma campiamo aspettando intossicazione da benzene. Non ci accorgiamo, no, non ci accorgiamo che questo folle luogo è solo il niente in cui viviamo, e che basterebbe un soffio per spazzarlo, mandarlo lontano, annullarlo, ma starcene qua stesi non serve che a potenziarlo, che a potenziarlo. Resti steso in questo niente, se ti lasci cadere in questo baratro di vite spente, consumato come un pezzo di carbone, ignoto fra gli ignoti, un altro uomo senza nome, senza nome, senza nome. Resti steso in questo niente, se ti lasci cadere in questo baratro di vite spente, consumato come un pezzo di carbone, ignoto fra gli ignoti, un altro uomo senza nome, senza nome, senza nome. Tutto questo è un niente, di niente, di niente, ma niente molto spesso risulta troppo opprimente, quando si scambia conseguente antecedente, oppure quando si vede il contingente e si pensa che sia immanente, si tende ad amalgamare varie forme di esistenza, uniformando ogni tipo di esigenza, con la ragione che cristallizza ancora un sano flusso di coscienza. E così siamo stesi perché retto e sovversivo, incatenati a terra perché in piedi essere vivo, spenti senza nome, privati di ogni motivo, pronti ad offenderci fra noi, piuttosto che a comprenderci per poi svincolarci dal vuoto vitale in cui siamo costretti a non intenderci, perché niente pesa quanto una sacra maledizione, più gli dà importanza più incrementa la sua azione, in un lampo ti consuma, sei solo un pezzo di carbone. Resti steso in questo niente, se ti lasci cadere in questo baratro di vite spente, consumato come un pezzo di carbone, ignoto fra gli ignoti, un altro uomo senza nome, senza nome, senza nome. Resti steso in questo niente, se ti lasci cadere in questo baratro di vite spente, consumato come un pezzo di carbone, ignoto fra gli ignoti, un altro uomo senza nome, senza nome, senza nome. E tutto quello che da fare è restar steso, oppure alzarti e guardare verso il cielo. E tutto quello che hai da fare è restar steso, oppure alzarti e guardare verso il cielo.